Capitolo terzo. Domenica. Appena suonò la campana la mattina dopo, Nat schizzò fuori dal letto e indossò con gran soddisfazione il vestito pronto sulla sedia. Non era nuovo, l'aveva portato a lungo uno dei ragazzi più agiati, ma mamma Baer conservava le penne lasciate cadere per gli uccelletti sperduti che venivano a fermarsi nel suo nido. Aveva appena finito di infilarselo quando comparve Tommy con un bel colletto pulito per accompagnarlo a colazione. Il sole brillava nella stanza da pranzo, sulla tavola bene apparecchiata e sul gruppo di ragazzi sani e pieni d'appetito che la circondavano. Nat osservò che erano molto più disciplinati della sera prima. Ognuno stava in silenzio dietro la sua seggiola, mentre il piccolo Rob, accanto a suo padre, a capo tavola, congiungeva le mani, curvando in atto reverente la testolina ricciuta, e recitava a mezza voce una breve preghiera, secondo il pio uso tedesco che papà Baer amava e che voleva osservato dal suo bambino. Poi sedettero tutti per gustare la colazione domenicale, composta di caffè, cotolette e patate al forno, invece del pane e latte con cui di solito saziavano il loro giovane appetito. Si chiacchierava allegramente in mezzo al vivace tintinnio dei coltelli e delle forchette, perché bisognava imparare certe lezioni della domenica, decidere la passeggiata da fare e discutere i progetti della settimana. Ascoltandoli, Nat pensò che quella giornata si presentava molto piacevole per lui, che amava la quiete. Su tutte le cose, infatti, pareva stendersi una specie di calma serena, che gli dava un senso di benessere perché possedeva la sensibilità nervosa caratteristica delle nature musicali. E ora, figlioli miei, sbrigate i vostri lavoretti del mattino e fatevi trovare pronti per andare in chiesa non appena arrivi l'omnibus, disse papà Baer. E dette egli stesso il buon esempio andando in classe a preparare i libri per l'indomani. Tutti si dispersero di qua e di là, perché a ognuno era affidata qualche piccola incombenza quotidiana che doveva assolvere scrupolosamente. Chi portava in casa legna e acqua, o scopava le scale, o faceva commissioni per la signora. Chi dava da mangiare agli animali favoriti, o faceva lavoretti nel capannone con Franz. Daisy lavava le tazze, Demi le asciugava, perché ai gemelli piaceva lavorare insieme. E a Demi era stato insegnato a rendersi utile anche nella casa dove erano nati. Persino il piccolo Teddy aveva i suoi lavoretti da fare e trotterellava avanti e indietro, riponendo i tovaglioli e rimettendo a posto le seggiole. Per una mezz'ora i ragazzi ronzarono attorno come uno sciame di api. Poi arrivò l'omnibus e papà Baer, Franz e gli 8 ragazzi più grandi vi si ammucchiarono dentro per la solita corsa fino alla chiesa in città, distante circa 3 miglia. A causa della sua fastidiosa tosse, Nat preferì restare a casa coi 4 più piccoli e passò una mattinata deliziosa nella camera di mamma Baer, ascoltando le storie che ella leggeva, imparando l'inno che insegnava loro e infine incollando tranquillamente delle vignette sopra un vecchio registro. «Questo è il mio armadio della domenica», disse mamma Baer, mostrandogli gli scaffali pieni di album da dipingere, di scatole di colori, di dadi per le costruzioni, di piccole agende, di carta da lettere. Voglio che i miei ragazzi amino la domenica, considerandola un piacevole giorno di quiete, durante il quale possono riposarsi dallo studio e divertirsi con giochi tranquilli, imparando in modo semplice lezioni più importanti di quelle insegnate a scuola. Mi capisci? Chiese osservando il visino attento di Nat. Vuol dire imparando a essere buoni? Disse il fanciullo dopo un attimo di esitazione. Sì, ad essere buoni, ad amare di esserlo. Qualche volta è una cosa ben difficile, nessuno lo sa meglio di me, ma noi ci aiutiamo a vicenda e così andiamo avanti. Ecco uno dei mezzi con cui cerco di aiutare i miei ragazzi. E tolto dall'armadio un grosso libro, in gran parte scritto, lo aperse a una pagina in cima alla quale Nat lesse una parola. «Ma quello è il mio nome!» gridò sorpreso e interessato a un tempo. «Sì, ho una pagina per ogni ragazzo dove tengo nota di come si comporta durante la settimana. E la domenica sera faccio vedere il resoconto. Se è cattivo, io ne sono triste e delusa. Se è buono, sono felice e orgogliosa. Ma comunque esso sia, i ragazzi sanno che il mio scopo è di aiutarli e cercano di fare del loro meglio per amor mio e di papà Baer». Vorrei vedere che non lo facessero, disse Nat, dando un'occhiata al nome di Tommy sulla pagina opposta alla sua, curioso di sapere che cosa vi fosse scritto. Mamma Baer se ne accorse e scosse il capo, dicendo, mentre voltava il foglio: No, io non mostro le mie note a nessuno, salvo all'interessato. Questo lo chiamo il mio libro della coscienza, e soltanto tu ed io sapremo quello che sarà scritto nella pagina col tuo nome. Dipenderà da te. Che domenica prossima tu sia lusingato o debba vergognarti quando leggerai. Credo che le tue note saranno buone. Ad ogni modo, io cercherò di renderti la vita facile in questa nuova casa, contentandomi che tu rispetti le nostre poche regole, che tu viva d'accordo con gli altri ragazzi e che tu impari qualche cosa. Io farò di tutto, signora. E il visetto di Nat divenne rosso, tanto era intenso il suo desiderio di rendere mamma Baer felice e orgogliosa e non triste e delusa. Deve essere un gran fastidio scrivere su tanti ragazzi, aggiunse poi, mentre ella chiudeva il libro dopo avergli dato un colpetto incoraggiante sulla spalla. Oh, non per me, perché davvero non so che cosa mi piace di più, se scrivere o i ragazzi, disse la signora ridendo dell'aria sbalordita di Nat. Sì, lo so, ci sono molti che li trovano fastidiosi, ma questo avviene perché non li capiscono. Io li capisco e non ne ho mai trovato uno col quale non abbia finito per intendermela benissimo. Una volta scoperto il punto vulnerabile del suo cuore. Dio mio, come farei a vivere senza questo branco di cari, turbolenti, insopportabili, scervellati ragazzini? Dillo tu, Teddy. E mamma Baer strinse fra le braccia il furfantello appena in tempo per impedirgli di cacciarsi in tasca il grosso calamaio. Nat, che non aveva mai udito nulla di simile, non arrivava a capire se mamma Baer fosse un po' tocca di cervello o non piuttosto la più deliziosa donna che avesse mai incontrata, ma inclinava verso quest'ultima opinione, nonostante i suoi gusti straordinari, perché ella aveva un modo di riempire il piatto senza esserne pregata, di ridere degli scherzi dando una tiratina d'orecchi o una manata sulla spalla che Nat trovava simpaticissimo. Forse ora ti piacerebbe andare nella classe a ripeterti qualcuno degli inni che canteremo stasera, disse ella, intuendo che cosa più di tutto egli desiderava fare. Solo, col suo amato violino e il fascicolo della musica aperto davanti a lui, sulla finestra inondata di sole, mentre la bellezza della primavera riempiva il mondo al di fuori e all'interno regnava il silenzio domenicale, Nat godette un'ora o due di perfetta felicità, imparando i cari vecchi motivi e dimenticando il duro passato nella letizia del momento presente. Quando gli altri ragazzi furono tornati dalla chiesa, dopo aver pranzato, si dispersero qua e là per la casa a leggere, a scrivere a casa, a ripetere le lezioni della domenica o a chiacchierare tranquillamente. Poi alle 3 tutti uscirono a fare una passeggiata perché i giovani corpi agili hanno bisogno di esercizio. E durante quelle passeggiate le menti vivaci imparavano a vedere e amare la provvidenza di Dio attraverso i meravigliosi miracoli che la natura compiva sotto i loro occhi. Li accompagnava a Papa Baer, che con le sue maniere semplici e paterne trovava sempre per i suoi allievi esortazioni nelle pietre, libri nei ruscelli scorrenti e bontà in tutte le cose. Mamma Baer, con Daisy e i suoi due maschietti, si recava in carrozza in città per la visita settimanale alla nonna, unica vacanza e gioia indicibile della sua vita occupatissima. Nat, che non era abbastanza forte per una lunga passeggiata, chiese di restare a casa con Tommy, che si era cordialmente offerto di fargli gli onori di Plumfield. La casa l'hai vista, ora vieni a vedere il giardino, il capannone e il serraglio, gli disse quando rimasero soli con Asia, incaricata di sorvegliarli perché non capitasse loro nulla di male, dato che Tommy, nonostante tutte le sue buone intenzioni, incappava sempre, chissà perché, nei casi più terribili. Che cos'è il vostro serraglio? Chiese Nat mentre trotterellava sul viale attorno alla casa. Ognuno di noi ha le sue bestie favorite, capisci? E le teniamo nel capannone che chiamiamo il serraglio. Eccoci arrivati. Guarda il mio porcellino d'India. Non è una bellezza? E Tommy presentò orgogliosamente uno dei più brutti esemplari che Nat avesse mai visto di quelle simpatiche bestiole. Io conosco un ragazzo che ne ha una dozzina e voleva darmene uno, ma non avevo il posto dove tenerlo e mi toccò rinunziarci. Era bianco, con delle macchie nere, sveglio come non puoi credere. Se ti piacesse, forse potrei farmelo dare per te, disse Nat, pensando che sarebbe un modo delicato di contraccambiare le attenzioni di Tommy. Oh, mi piacerebbe molto. Io ti darei il mio e potrebbero vivere insieme se andassero d'accordo. Questi topi bianchi sono di Rob. Glieli ha dati Franz. I conigli sono di Ned e quelle galline di Java lì fuori sono di Staffy. Questa cassetta dovrebbe contenere le tartarughe di Demi, ma non ce n'è ancora messa nessuna. L'anno scorso ne aveva 62. Qualcuna era enorme. Sopra una ha inciso il suo nome e la data, e poi l'ha lasciata andare. Dice che forse la ritroverà fra molto tempo e potrà riconoscerla. Aveva letto che era stata trovata una tartaruga con un segno dal quale risultava che era vecchia di centinaia di anni. Demi è un tipo così strano. Che c'è qui dentro? Chiese Nat fermandosi davanti a una cassa profonda e metà piena di terra. Ah, è il deposito di vermi di Jack Ford. Ne scava a mucchi e li tiene qui, e quando ne vogliamo per andare a pescare li compriamo da lui. È molto più comodo, ma li mette troppo cari. L'ultima volta ho dovuto pagargli 2 soldi la dozzina, ed erano anche piccoli. Jack certe volte è un gran spilorcio, ma gli ho detto che se non ribassa i prezzi andrò a scavarmeli da me. Io ora ho 2 galline. Quelle grigie col ciuffetto, di prima qualità, e vendo le uova a mamma Baer, ma non gliele metto mai più di 25 soldi la dozzina, mai. Mi vergognerei di farlo, esclamò Tommy lanciando un'occhiata di disprezzo al deposito dei vermi. E i cani di chi sono? Chiese Nat, che si interessava molto a quelle transazioni commerciali e pensava che dovesse essere un privilegio e un piacere dare il proprio appoggio a un individuo come Tommy Banks. Quello grosso è di Emil e si chiama Cristoforo Colombo. Il nome gliel'ha dato mamma Baer perché è un po' il suo intercalare e nessuno ci bada se si rivolge al cane, rispose Tommy col tono dell'imbonitore di serraglio. Il cucciolo bianco è di Rob e quello giallo è di Teddy. C'era uno che stava per affogarli nel nostro stagno, ma papà Baer gliel'ha impedito. Vanno benissimo per i bimbi, ma a parer mio valgono poco. Si chiamano Castore e Polluce. Io, se potessi avere una bestia, preferirei l'asino Toby. È tanto bello andare a cavallo e Toby è così buono e carino, disse Nat, ricordando i lunghi e faticosi giri fatti coi suoi poveri piedi indolenziti. L'ha mandato il signor Lori a mamma Baer perché non debba portare Teddy in collo quando andiamo a spasso. Gli vogliamo tutti bene, è un asino di prima qualità, eh? Questi piccioni sono un po' una proprietà comune. Ma ciascuno ha il suo prediletto e quando nascono i piccoli ce li dividiamo. I piccioncini sono tanto divertenti. Ora non ce ne sono, ma puoi salir su a dare un'occhiata ai vecchi mentre io guardo se Ciuffetta e Nonnetta hanno fatto l'uovo. Nat salì su per una scala a pioli, fece passare la testa attraverso una botola e rimase a lungo a guardare i graziosi colombi che si beccavano e tubavano nella loro spaziosa colombaia. Alcuni erano posati sui nidi, altri zampettavano dentro e fuori, altri stavano fermi presso gli uscioli, altri ancora svolazzavano dal letto inondato di sole al cortile coperto di paglia, dove 6 lustre mucche ruminavano placidamente. Hanno tutti qualcosa. Io solo non ho nulla. Mi piacerebbe tanto avere un piccione, una gallina o anche una tartaruga, ma proprio miei, pensava Nat, sentendosi così povero, mentre ammirava gli interessanti tesori degli altri ragazzi. Come fate per avere queste bestie? Chiese a Tommy quando lo raggiunse nel capannone. Le troviamo, o le compriamo, o ce le regalano. Le mie me le ha mandate il babbo, ma appena abbia messo insieme abbastanza denaro con le uova mi comprerò un paio di anatre. C'è un piccolo stagno dietro il baraccone che sembra fatto apposta e le uova d'anatra sono pagate bene. Gli anatrocoli poi sono proprio graziosi ed è così divertente vederli nuotare, disse Tommy con l'aria di un milionario. Nat fece un sospirone, perché lui non aveva né babbo né denaro, nulla nel vasto mondo, tranne un vecchio portafogli vuoto e l'abilità nella punta delle sue 10 dita. Tommy Parve comprendere il significato della domanda e del sospiro che seguì la sua risposta, perché dopo un momento di profonda meditazione disse all'improvviso: Senti, ecco che cosa faremo. Se vorrai cercare le uova per me, che è una cosa che io detesto, te ne darò una per ogni dozzina. Tu terrai il conto e quando ne avrai 12, mamma Baer te le pagherà 25 soldi e allora potrai comprarti quello che vuoi. Ti va? Certo, come sei buono, Tommy! Esclamò Nat, abbagliato da quella brillante offerta. Bah, non è nulla. Comincia subito a frugare nel capannone. Io ti aspetterò qui. Nonnetta sta chiocciando, quindi sei sicuro di trovarne uno da qualche parte. E Tommy si buttò a lungo, disteso sul fieno, molto soddisfatto nel suo intimo di aver fatto insieme un buon affare e una buona azione. Nat cominciò tutto allegro la sua ricerca, frugando in ogni angolo finché trovò due belle uova. Una nascosta sotto una trave e l'altra in un vecchio staio che Madama Ciuffetta si era appropriata. Prendiamone uno per uno. Io completerò la mia ultima dozzina e domani ricominceremo. Ecco, scrivi col gesso il tuo conto accanto al mio, così le cose andranno bene, disse Tommy, mostrando una fila di cifre misteriose sul fianco liscio di un vecchio vaglio. Con un senso delizioso di importanza e di orgoglio, il possessore d'un uovo aperse il conto con il suo amico, il quale scrisse, ridendo sopra le cifre, queste imponenti parole: Tommy Banks and Company. Il povero Nat le trovò così affascinanti che ci volle tutta a persuaderlo di andare a depositare quel primo articolo dei suoi beni mobili nella dispensa di Asia. Poi continuarono il loro giro. E dopo aver fatto la conoscenza di due cavalli, sei mucche, tre maiali e di un vitello di razza Alderney, Nat fu condotto a un vecchio salice che ombreggiava un ruscelletto chiacchierino. Dalla siepe era facile arrampicarsi in una larga nicchia fra i grandi rami dell'albero, che potati di anno in anno formavano coi loro flessibili ramoscelli un grande baldacchino frusciante. In quella nicchia erano stati inchiodati dei piccoli sedili e dentro una cavità, un armadietto abbastanza grande per contenere uno o due libri, una barchetta disarmata e parecchi fischietti non ancora finiti. Questo è il nostro posto riservato di Demi e mio. L'abbiamo fatto noi e nessuno salvo Daisy vi può venire se non invitato, spiegò Tommy, mentre Nat, rapito, correva con gli occhi dall'acqua scura gorgogliante ai piedi dell'albero alla verde volta al di sopra, dove le api ronzavano armoniosamente banchettando sugli alti fiori gialli che riempivano l'aria di un dolce profumo. Oh, com'è bello! Esclamò. Spero che mi ci lascerete salire qualche volta. Non ho mai visto un posto così carino in tutta la mia vita. Vorrei essere un uccello e vivere sempre qui. Già, è proprio carino. Potrai venire se Demi sarà contento, e credo di sì perché ieri sera ha detto che tu gli piaci. Davvero? E Nat sorrise, lusingato, perché tutti i ragazzi sembravano tener molto al giudizio di Demi, in parte perché era nipote di Papa Baer, in parte perché era un ragazzino così savio e coscienzioso. Sì, a lui piacciono i tipi tranquilli, e credo che voi due ve la intenderete, se anche tu hai come lui la passione di leggere. Le guance del povero Nat, rosse di piacere, divennero scarlatte per la vergogna a queste ultime parole. Rispose balbettando: Io non so leggere troppo bene. Mi è mancato il tempo per imparare, sai, dovevo sempre girare per le strade suonando il violino. Oh, anch'io non ho una gran passione, ma se voglio leggo discretamente, disse Tommy dopo avergli lanciato uno sguardo sorpreso che diceva chiaro: un ragazzo di 12 anni che non sa leggere. Però so leggere la musica, aggiunse Nat un po' turbato per aver dovuto confessare la sua ignoranza. Io no. E il tono di Tommy era così rispettoso che Nat si sentì incoraggiato a dire con voce più sicura: Ho intenzione di studiare sul serio e di imparare più che posso, perché prima me ne è sempre mancata l'occasione. Le lezioni di Papa Baer sono molto difficili. No, no, è tanto paziente, ce le spiega bene, ci aiuta nei punti più duri. Non tutti lo fanno. L'altro maestro che ho avuto non se lo sognava neppure, e se si sbagliava una parola si buscavano degli scappellotti. E Tommy si strusciò la zucca come se sentisse ancora il bruciore dell'abbondante porzione di scapaccioni, il cui ricordo era tutto quanto gli restava dell'anno passato con l'altro maestro. «Mi pare che questo potrei leggerlo», disse Nat che stava esaminando i libri. «Prova, io ti aiuterò», propose Tommy con aria di protezione. Nat fece del suo meglio e arrivò con molto stento sino in fondo a una pagina, sorretto dagli amichevoli incoraggiamenti di Teddy, il quale dichiarò che presto se la sarebbe cavata meglio degli altri. Poi, sempre seduti sull'albero, chiacchierarono fanciullescamente di ogni sorta di cose e tra l'altro della coltivazione dei campi, perché Nat, guardando in basso, aveva chiesto che cosa c'era nei numerosi quadratini di terreno sull'altra riva del ruscello. «Oh, quelli sono i nostri poderi. Ognuno di noi ne ha uno, dove coltiva quello che vuole. Però dobbiamo scegliere cose diverse e non si può cambiare finché non è fatto il raccolto. E bisogna anche tenerli in ordine tutta l'estate. Tu che coltiverai quest'anno?» «Beh, io sono quasi intenzionato di coltivare le fave, perché vengono su facilmente.» Nat non poté fare a meno di ridere, perché Tommy si era spinto indietro il cappello, si era cacciato le mani in tasca e strascicava le parole imitando inconsciamente il modo di parlare di Silas. «Via, non ridere. Le fave sono davvero più facili da coltivare del gran turco o delle patate. L'anno passato provai coi meloni, ma c'era la noia delle cimici, e poi quei noiosi non vollero maturare prima del gelo, cosicché non ottenni che un cocomero e due meloncini striminziti», disse Tommy, ricadendo nell'imitazione di Silas con le ultime parole. «Il grano ha l'aria di crescer bene», osservò Nat cortesemente per farsi perdonare la sua risata. «Sì, ma bisogna zappare, zappare, sempre, mentre per le fave basta uno o due volte e maturano subito. Proverò io a coltivarle, perché sono stato il primo a dirlo.» «Le voleva anche Staffi, ma ha dovuto attaccarsi ai piselli. Oh, quelli basta coglierli, e andranno bene per un mangione come lui.» «Chissà se potrò avere un podere anch'io», chiese Nat, pensando che anche zappare il grano doveva essere un lavoro piacevole. «Certo che l'avrai», disse una voce sotto di loro. Era Papa Bear, che di ritorno dalla passeggiata era venuto a cercarli, perché durante il giorno faceva volentieri una chiacchieratina con ciascuno dei ragazzi, avendo constatato che serviva a preparare bene la settimana successiva. La simpatia è una dolce cosa. In questo caso compiva miracoli, perché ogni ragazzo vedeva che Papa Bear si interessava a lui, e alcuni erano disposti ad aprirgli il loro cuore meglio che a una donna. Massime, i più grandi, chiamavano a parlare delle loro speranze e dei loro progetti da uomo a uomo. Quando però si sentivano male o qualcosa li affliggeva, ricorrevano istintivamente alla signora Jo, e i piccoli poi si confidavano sempre con lei, in ogni occasione. Scendendo dal loro nido, Tommy cadde nel ruscello, ma c'era abituato e quindi se ne tirò fuori tranquillamente e andò a casa per farsi asciugare. Così Papà Bear rimase solo con Nat, come appunto desiderava, e durante la passeggiatina che fecero tra i campicelli, egli conquistò il cuore del ragazzo, dandogli un piccolo podere e discutendo con lui circa i raccolti così gravemente come se ne dipendesse il vettovagliamento familiare. Da questo piacevole argomento passarono ad altri, e nel cervello di Nat fiorirono molte nuove utili idee accolte con la stessa gratitudine con cui la terra assetata riceve la tiepida pioggia primaverile. Egli le rimuginò durante tutta la cena, fissando spesso gli occhi sul signor Bayer con uno sguardo scrutatore, come a dire: «Questo mi piace, mi parli ancora così, signore?» E forse egli comprese il muto linguaggio del fanciullo, perché quando tutti furono raccolti nel salottino della signora Baer per la chiacchierata della domenica sera, scelse un argomento che poteva essere stato suggerito dalla passeggiata in giardino. Guardandosi attorno, Nat aveva l'impressione di trovarsi in una grande famiglia piuttosto che in una scuola, perché i ragazzi sedevano in un ampio semicerchio attorno al fuoco, alcuni su sedie, altri sul tappeto. Daisy ed Amy sulle ginocchia dello zio Fritz, mentre Rob era stato sistemato comodamente in fondo alla poltrona della mamma, dove poteva appisolarsi senza essere visto. se la conversazione avesse preso un tono troppo alto per lui. Tutti sembravano soddisfatissimi e ascoltavano attenti perché la lunga passeggiata rendeva piacevole il riposo. E siccome ogni ragazzo sapeva che sarebbe chiamato a dire la sua opinione, tutti tenevano sveglio il cervello per essere pronti a rispondere. C'era una volta, cominciò papà Baer con la vecchia cara formula, c'era una volta un bravo e saggio ortolano che possedeva il più grande orto che si fosse mai visto. Era un posto meraviglioso, incantevole, ed egli se ne occupava con la massima abilità e la massima cura, coltivandovi ogni sorta di eccellenti ed utili cose. Ma anche in quell'orto bellissimo crescevano le erbacce. Spesso il suolo era ingrato e i buoni semi gettati in esso non germogliavano. Egli aveva sotto di sé molti altri ortolani per aiutarlo. Ce n'erano che facevano il loro dovere guadagnandosi i buoni salari che ricevevano, mentre altri trascuravano le zone loro affidate, lasciandole rinselvatichire, il che gli dispiaceva assai. Ma egli era molto paziente, per migliaia e migliaia di anni lavorò e attese il suo grande raccolto. Come doveva essere vecchio, osservò Demi, che teneva gli occhi fissi in volto allo zio Fritz per non perdere una sola parola. Zitto, Demi, è una fiaba, mormorò Daisy. No, credo piuttosto che sia una rigolia, disse Demi. Che cos'è una rigolia? Chiese Tommy, che era in vena di far domande. Spiegaglielo, Demi, se ne sei capace, e non usare parole di cui non conosci bene il significato, disse il signor Baer. Io lo so, me l'ha detto il nonno. Una favola è una rigolia, cioè un racconto che vuol dire qualche cosa, come la mia storia senza fine dove il bambino significa l'anima. Non è vero, zietta? Gridò Demi, smanioso di giustificarsi. Sì, caro, è così. E la storia dello zio è una allegoria, ne sono certa. Quindi ascoltala e cerca di capire che cosa significa, rispose mamma Jo, che partecipava sempre a quanto si faceva, divertendosi non meno dei ragazzi. Demi si mise tranquillo e papà Baer continuò nel suo migliore inglese, perché per merito dei ragazzi, come egli riconosceva volentieri, aveva fatto molti progressi in quei 5 anni. Questo grande giardiniere dette circa una dozzina di campicelli a uno dei suoi dipendenti, dicendogli di fare del suo meglio e di vedere che cosa potrebbe coltivarvi. Ora, costui non era ricco né intelligente né molto abile, ma desiderava rendersi utile, perché l'ortolano era stato molto buono con lui in varie occasioni. Quindi accettò volentieri quei campicelli e si mise al lavoro. Erano di varie forme e di varie dimensioni. La terra di alcuni era assai buona, altri invece erano sassosi e tutti richiedevano molta cura, perché nel terreno fertile le erbacce crescevano in fretta, in quello sterile c'erano troppe pietre. Che cosa ci cresceva oltre le erbacce e le pietre? Chiese Nat, così interessato da dimenticare la sua timidezza e da parlare per primo. Fiori, rispose papà Baer con uno sguardo affettuoso. Anche il più incolto e il più trascurato campicello aveva un ciuffo di viole del pensiero o di reseda. In uno c'erano rose, piselli profumati e margherite. E a questo punto egli pizzicò la guancia paffutella della bimba appoggiata al suo braccio. Un altro conteneva ogni sorta di piante curiose. Una vite che si arrampicava come i gambi dei fagioli di Jack. E molte buone sementi che cominciavano a germogliare, perché, vedete, questo campicello era stato affidato a un vecchio saggio che aveva lavorato tutta la vita in giardini del genere. A questo punto della rigolia, Demi volse il capo come un uccelletto curioso, fissando l'occhio brillante in volto allo zio, quasi sospettasse qualcosa e stesse in guardia. Ma il signor Baer, con l'aria più innocente del mondo, continuò il suo racconto, scorrendo con gli occhi dall'uno all'altro volto, e serbando un'espressione grave e pensosa, ben eloquente per sua moglie, che sapeva con quanto ardore egli desiderasse compiere i suoi doveri in quei campicelli. Come vi ho detto, alcuni di questi pezzi di terra erano facili da coltivare, ossia, Daisy, era facile averne cura. Per altri, invece, la cosa era molto difficile. C'era specialmente un campicello in un'ottima posizione al sole che avrebbe potuto produrre in abbondanza frutta e legumi oltre ai fiori, ma non voleva fare nessuno sforzo. E se uno, per esempio, vi avesse seminato dei meloni, non avrebbe raccolto nulla perché il campicello non se ne occupava. L'uomo ci soffriva, ma non desisteva dai suoi tentativi, sebbene ogni volta che il raccolto andava perduto, il terreno si scusasse dicendo: «Oh, me ne ero dimenticato». Qui tutti risero guardando Tommy, che alla parola meloni aveva drizzato le orecchie e ora abbassava il capo confuso, sentendo la sua scusa favorita. «L'ho capito subito che parlava di noi», gridò Demi battendo le mani. «Tu sei il giardiniere, noi siamo i campicelli, vero zio Fritz?» «Hai indovinato. Ora ognuno di voi mi dica che cosa devo tentare di seminare in lui questa primavera, per poter il prossimo autunno ricavare un buon raccolto dai miei 12, cioè dai miei 13 campicelli», disse papà Baer correggendosi e facendo cenno col capo a Nat. «Ma lei non può mica seminare gran turco, fave e piselli in noi, a meno che intenda dire che dobbiamo mangiarne tanti da ingrassare», disse Staffi, mentre il viso pienotto e inespressivo gli si illuminava tutto quella piacevole prospettiva. «Ma non parla di semi di questo genere, vuol dire quelle cose che ci rendono buoni, e le erbacce sono i difetti», spiegò Demi, che sosteneva sempre la parte principale in questa specie di conversazioni alle quali era abituato e che gli piacevano molto. «Sì, ciascuno di voi pensi a quello di cui ha più bisogno e me lo dica, e io vi aiuterò a farlo crescere, ma anche voi dovrete fare del vostro meglio, se no riuscirete come i meloni di Tommy, tutti foglie e niente frutti. Comincerò dai grandi chiedendo alla mamma che cosa desidera nel suo campicello, perché noi facciamo tutti parte del bellissimo giardino e potremo ottenere un bellissimo e ricco raccolto se sapremo amarlo abbastanza», disse papà Baer. «Io dedicherò tutto quanto il mio campicello a ottenere il massimo raccolto di pazienza, perché è quella che mi occorre di più», disse mamma Jo con tanta serietà che i ragazzi si misero subito a pensare che cosa avrebbero detto quando fosse la loro volta, e qualcuno provò anche una fitta di rimorso per aver concorso a esaurire in fretta la sua riserva di pazienza. Franz desiderava della perseveranza, Tommy della fermezza, Ned un buon carattere, Daisy dell'attività, Demi tanta saggezza quanto il nonno, e Nat disse timidamente di aver bisogno di tante mai cose che lasciava la scelta a papà Baer. La scelta degli altri due non differì molto. Il raccolto più richiesto fu quello della pazienza, del buon carattere e della generosità. Uno desiderava imparare a levarsi presto volentieri, ma non sapeva come chiamare quella specie di sementa. E il povero Staffi disse con un sospirone: «Io vorrei che le mie lezioni mi piacessero quanto il mio pranzo, ma non è possibile». «Pianteremo un po' di spirito di sacrificio, sarchiandolo e innaffiandolo così bene che il prossimo Natale nessuno farà indigestione per aver mangiato troppo a pranzo. Se tu eserciterai il tuo cervello, Giorgio, lui non avrà meno fame del tuo stomaco e finirai per amare i libri quasi quanto questo mio filosofo». E respingendo indietro i capelli dalla bella fronte di Demi, papà Baer aggiunse: «Anche tu sei avido, figlio mio, e ti piace troppo rimpinzarti il cervello di fiabe e di fantasie, come a Giorgio piace rimpinzarsi di torte e di confetti. Sono due eccessi ugualmente dannosi, e io vorrei che tu ti dedicassi a qualcosa di meglio. Certo, l'aritmetica è molto meno divertente delle mille una notte, ma è assai utile, ed è ormai tempo che tu la impari, a scanso di vergogna e di rammarico quando sarà troppo tardi». «Ma Harry e Lucy e Frank non sono fiabe. Parlano di barometri, di costruzioni, del modo di ferrare i cavalli e di altre cose utili. E mi piacciono tanto, vero, Daisy?» disse Demi, desideroso di difendersi. «È vero, ma ti vedo leggere Roland e Maybird assai più spesso che Harry e Lucy. E son sicuro che Frank ti interessa assai meno di Sinbad. Su, voglio fare un piccolo patto con voi due. Giorgio mangerà soltanto 3 volte al giorno e tu leggerai un solo libro di racconti alla settimana. Io in compenso vi darò un nuovo campo per il cricket, ma dovete promettermi di giocarvi, disse lo zio Fritz col suo tono persuasivo, perché Staffi detestava correre ed Emi leggeva sempre nelle ore di gioco. Ma il cricket non ci piace, disse Emi. Ora forse no, ma vi piacerà quando avrete imparato a giocarlo. Inoltre, siccome vi mostrate volentieri generosi e gli altri ragazzi desiderano giocare, potrete lasciarli venire sul nuovo campo, se volete. Presi così dal lato buono, i due ragazzi accettarono il patto, con grande soddisfazione anche degli altri. Si parlò ancora un po' dei giardinetti e poi cantarono tutti in coro. L'orchestrina delizionat, perché mamma Baer suonava il piano, Franz il flauto, il signor Baer il violoncello e lui il violino. Fu un concerto assai semplice, ma tutti parvero gustarlo molto, e la vecchia Asia, seduta in un angolo, si univa ogni tanto al coro con una voce dolcissima, perché in quella casa padroni e servitori, vecchi e giovani, bianchi e neri, cantavano insieme gli inni domenicali. Poi tutti strinsero la mano a papà Baer, mentre mamma Baer li baciò uno per uno, da Franz, che aveva 16 anni, al piccolo Rob, che le dette un bacetto tutto suo sulla punta del naso. Dopodiché se ne andarono a letto. La luce della lampada velata dal paralume, accesa nella stanza dei bambini, illuminava dolcemente un piccolo quadro appeso sul letto di Nat. Ce n'erano parecchi sulle pareti, ma al fanciullo pareva di vedere in quello qualcosa di speciale, perché aveva una bella cornice di muschio e di pigne, e sotto c'era una mensoletta con un vaso di fiori di campo appena raccolti nei boschi. Era il quadro più bello, e Nat, coricato nel suo letto, lo ammirava, comprendendo solo vagamente che cosa significasse e desiderando molto saperne di più. «Quello è il mio quadro», disse una vocina nella stanza. Nat sollevò il capo dal cuscino e vide Demi in camicia da notte, di ritorno dalla camera della zia Jo, dove era andato a farsi dare un pezzo di cerotto per un taglietto che si era fatto a un dito. «Che cosa fa a tutti quei bambini?» chiese Nat. «È Gesù che li benedice. Non sai nulla di lui?» domandò Demi stupito. «Non molto, ma vorrei saperlo», rispose Nat, che conosceva soprattutto il nome di Dio per averlo sentito pronunziare invano. «Io so la sua storia e mi piace tanto perché è vera», disse Demi. «Chi te l'ha raccontata?» «Il mio nonno, che sa tutto e mi racconta le più belle storie del mondo. Quando ero piccolo giocavo sempre coi suoi libroni per fare ponti e ferrovie e case», continuò Demi. «Quanti anni hai ora?» chiese Nat in tono di rispetto. «Quasi 10». «Tu sai un mucchio di cose, vero?» «Sì, lo vedi che testa grossa mi ritrovo? Il nonno dice che ci vuole molta roba per riempirla. E io continuo a cacciarvi dentro pezzi di sapienza più in fretta che posso», rispose Demi, originale come sempre. Nat rise, poi rifattosi serio disse: «Raccontami per piacere». E Demi, ben contento, prese a narrare tutto d'un fiato senza pause. «Un giorno trovai un libro e volevo servirmene per giocare, ma il nonno non me lo permise, mi fece vedere le illustrazioni e me le spiegò. E quelle storie mi piacquero molto, di Giuseppe e dei suoi cattivi fratelli e delle rane che uscirono dal mare e del piccolo Mosè nell'acqua e tante altre così belle, ma più di tutte mi piacque quella dell'uomo Dio. E il nonno me la raccontò tante volte che la imparai a mente e mi dette questo quadro perché non la dimenticassi. E una volta che ero malato lo attaccarono lì e io ce l'ho lasciato perché altri ragazzi malati lo possano vedere». «Perché benedice i bambini?» chiese Nat, che si sentiva molto attirato verso la figura centrale del gruppo. «Perché li amava?» «Erano bimbi poveri?» chiese Nat in tono triste. «Credo di sì. Guarda, certi sono mezzi nudi e le madri non sembrano davvero ricche signore. Egli amava i poveri ed era molto buono con loro. Li guariva, li aiutava e insegnava ai ricchi a non maltrattarli. Ed essi lo amavano tanto, tanto», esclamò Demi con entusiasmo. «Era ricco? Oh no, era nato in una stalla ed era così povero che quando crebbe non aveva neppure una casa dove vivere e certe volte nulla da mangiare se la gente non gliene offriva. E andava in giro predicando a tutti e cercando di renderli buoni finché gli uomini cattivi lo uccisero». «Perché?» E Nat si sedette sul letto per guardare e ascoltare meglio, tanto era l'interesse suscitato in lui da quell'uomo che si prendeva così a cuore la sorte dei poveri. Ti racconterò tutto. La zia non dirà nulla. Ed Emi si accomodò sul letto di faccia, contento di ripetere la sua storia favorita a un così attento ascoltatore. La bambinaia fece capolino per vedere se Nat dormiva, ma di fronte a quanto stava accadendo si ritirò senza far rumore e andò da mamma Baer per dirle, col volto impresso di materna emozione: «Vuol venire, la nostra cara signora, a vedere una cosa bella? C'è Nat che ascolta con tutto il cuore». Ed Emi che gli racconta la storia di Gesù Bambino, da quel candido angioletto che è. La signora Baer aveva pensato di andare a fare due chiacchiere con Nat prima che si addormentasse, perché sapeva per esperienza che una parola seria detta in quel momento faceva spesso molto bene. Ma quando, avvicinatasi pian piano alla porta, vide Nat che pendeva dalle labbra del suo piccolo amico, mentre questi gli raccontava la solenne storia come lui stesso l'aveva appresa, parlando a bassa voce coi suoi begli occhi fissi sul tenero volto rappresentato nel quadretto, si sentì commossa e si allontanò in silenzio, pensando: «Demi, senza saperlo, fa più bene a questo povero ragazzo di quanto potrei farne io. Non voglio sciupare l'opera sua con una sola parola». Il mormorio della voce infantile durò a lungo, mentre un cuore innocente predicava la grande parola a un altro cuore innocente, senza che nessuno lo interrompesse. E quando finalmente cessò e la signora Baer andò a portar via la lampada, Demi non c'era più e Nat dormiva col viso rivolto al quadro, come se avesse già imparato a voler bene a colui che amava i bambini ed era amico dei poveri. Osservando l'espressione placida di quel visino, ella pensò che se un solo giorno di premura e di affetto aveva potuto ottenere tanto, un anno di lavoro paziente avrebbe prodotto certo un bel raccolto da quel campicello trascurato, nel quale il piccolo missionario in camicia da notte aveva già sparso la migliore delle sementi.